giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Il nostro spazio di ascolto, riascolto, se per caso avete già partecipato a uno degli eventi che vi proponiamo. Oggi parliamo di iniziazione cristiana dei bambini con anche il percorso che fanno i genitori. E lo scorso 2 aprile si è svolto l'incontro diocesano per tutti gli accompagnatori dei genitori nel rinnovato, ormai da qualche anno, percorso dell'iniziazione cristiana, un incontro molto partecipato che si è svolto nel teatro dell'Opsa di Sarmeola di Rubano, un incontro, un confronto con le diverse esperienze, la relazione del direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, Don Paolo Sartoro. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. È un piacere per me essere qui per il cammino che state facendo, che appunto ha nella soggettività della comunità cristiana come tale che genera, e anche proprio nel tentativo di lavorare insieme con e non solo per i genitori, un elemento qualificante da alcuni anni, per cui va bene se ci riesco do un piccolo apporto, però soprattutto vengo anche per sintonizzarmi e magari per imparare qualcosa. E allora, tre punti, come direbbe il Papa, i vecchi gesuiti, lui dice prendendosi in giro, tre punti per ogni predica, tre punti per ogni relazione. Allora, visto che mi è stato chiesto di parlare dell'accompagnatore dei genitori nella prospettiva sullo sfondo di Evangelii Gaudium, naturalmente solo qualche cenno, visto che ormai è patrimonio comune, poi la figura dell'accompagnatore in Evangelii Gaudium e poi magari tentiamo di dirci qualcosa, magari proprio immaginando una descrizione. Voi avete chiesto i tratti, avete chiesto un po' di spiritualità, vediamo. Insomma. Ecco, certamente la figura dell'accompagnatore dei genitori, lo diceva il Vescovo prima, è una figura in parte nuova, in un compito certamente di rilievo e anche delicato, lo si è capito anche dalla testimonianza, da quello che un po' tutti respiriamo, è però un compito nevralgico, una figura interessante. Allora, primo elemento, ricordiamo 2-3 pennellate di Evangelii Gaudium. Prima di tutto proprio il riferimento in questa esortazione apostolica che da circa 4 anni quasi ritma il nostro percorso, il riferimento alla gioia. 59 volte nell'esortazione, che non è breve, però 60 volte non sono poche, non è solo un titolo. E forse questo ha già da dirci qualcosa. Voi dicevate qual è la spiritualità di un accompagnatore, o anche nelle parole di Maria Teresa che mi sono segnato mentre le diceva, quali possono essere gli indicatori che ci rassicurano, ci mettono un po' sereni, no? Io direi anche così, se tutto sommato, facendo questo compito, questo servizio impegnativo, però ci accorgiamo che la gioia non diminuisce, ma possibilmente pian piano aumenta. E per riprendere un'espressione del Papa proprio al numero 1 di Evangelii Gaudium, diminuisce invece il peccato, la tristezza, il vuoto interiore, l'isolamento, sono parole sue, non solo mio, ma anche un pochino dei cristiani più noti, più partecipi della comunità rispetto agli altri, ecco, forse è un segno che si sta lavorando insieme. Tenendo presente che in questo orizzonte missionario, sentitevi missionari, diceva il Vescovo prima, ci sono due grandezze da tenere presenti. La prima è, tutti hanno, dice il Papa, il diritto di ricevere il Vangelo, Evangelii Gaudium 14. Dall'altra parte, i cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno. Tutti hanno il diritto. Quando noi annunciamo, non dobbiamo escludere nessuno. Allora il riferimento inevitabilmente nell'accesso alla fede così come lo conosciamo dalle nostre parti, ma in realtà così com'è nel discorso della buona notizia per sé e a tutti. La destinazione universale della chiamata alla salvezza è un dato reale. Quando prima il vostro vescovo diceva non pretendiamo i grandi numeri, poi ci tornerò, lavoriamo anche coi piccoli numeri, anzi c'è anche qualche vantaggio, questo non toglie che il vostro vescovo per primo, i nostri pastori, ciascuno di noi, senta che per sé il Vangelo è per tutti. La proposta cristiana ha una destinazione universale. Noi non potremmo mai essere paghi se anche un solo genitore, una sola mamma, un solo papà di quelli che in diocesi di Padova, e quindi parliamo di migliaia di genitori, uno di questi ancora oggi mandasse il figlio come un pacchettino alla catechesi e viene agli incontri perché deve, perché altrimenti è vero che avete fatto, io concordo assolutamente, della gratuità e della libertà, due elementi qualificanti della vostra proposta, però uno dice per i figli si fa tutto, mica che poi pregiudica, andiamo, però lo fa con questo animo. Non può il nostro animo essere indifferente, ma d'altra parte, come il vescovo ci ha insegnato bene, noi intanto partiamo e intanto non ci facciamo togliere la gioia del Vangelo, direbbe il Papa, per il fatto che uno manca, che uno vive le cose per forza, che uno dopo un po' se ne va. Gioia del Vangelo. Se vediamo che un pochino cresce, forse siamo sulla strada giusta, lo diciamo con umiltà. Secondo elemento. Un grande teologo gesuita, per sé teologo dogmatico, cioè teologo vero e proprio, che però si è occupato tanto anche di teologia pastorale, Karl Rahner, aveva scritto nel 76 un libro che si chiamava così, La Chiesa e, diciamo, come compito e come chance. La trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance. Il Papa, a distanza di decenni, anche lui gesuita, riprende di fatto questa intuizione quando in varie pagine della sua esortazione apostolica, prima Evangelii Gaudium e poi ulteriormente nelle altre più recentemente, ci dice che ha a tema la riforma di noi stessi, ma la riforma di noi stessi non disgiunta dalla riforma dell'istituzione ecclesiale. È in gioco il volto delle nostre chiese, delle nostre diocesi, delle nostre parrocchie. È interessante questa cosa. Da una visione che sappiamo può esistere, burocratica, organizzativa, anche fatta bene, in cui non manca nulla, eccetera, a una visione in cui prevale la relazione. Su questo anche il vescovo ha detto. Su questo hanno detto gli amici che prima ci hanno portato la loro testimonianza. Alla fine, se anche uno dovesse dire ma quei cinque che c'erano qui al mio posto, propriamente che cosa hanno detto? Al di là di fare il verbale, perché erano preparati, c'erano i testi, le cose si capivano, però uno quello che coglie è che ci sono persone che lavorano insieme, con passione, con gusto. Poi qualcuno da più tempo, qualcuno da meno tempo, qualcuno. Però insieme si cresce, insieme si cammina, e chi probabilmente incontra loro e quelli che con loro svolgono questo servizio si sente tirato dentro in una rete positiva. Comunità cristiana così propizia il Papa. Guardate il brano che abbiamo riportato sullo schema, il numero 47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere le chiese aperte. Sapete che su questo il Papa batte molto. Così, se qualcuno volesse seguire una mozione dello Spirito, si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa, ma ci sono altre porte, non solo la porta fisica delle nostre chiese, che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità. Voi dite, quali sono gli indicatori che ci rassicurano? Sono 4 anni, poi qualcuno magari dopo, che si è in questo cammino rinnovato. Abbiamo visto qualche persona, forse anche solo una mamma o un papà, ma sono sicuro che sono stati di più, che ha bussato, che si è resa disponibile a un piccolo servizio. Mica tutti possono fare nella chiesa i catechisti o gli accompagnatori dei genitori, siamo d'accordo? Magari una persona di indole, non lo so, più pratica o che può trovarsi in imbarazzo a rendersi disponibile per questo, però si è reso disponibile quando abbiamo fatto i carri di carnevale, che di solito avrebbe visto se andava bene dal terrazzo di casa sua. Un'altra persona è entrata a far parte del coro della parrocchia con la scusa che prepariamo il canto per quella volta dei bambini e poi dopo si è trovata bene. C'è stato qualcuno così? Se c'è stato, se qualcuno comincia a sentirsi attratto da quella porta e poi scopre che la porta è più aperta che chiusa effettivamente, se uno osa, questo è un segno positivo, credo. Terzo elemento. Sapete che c'è un intero capitolo di Evangelii Gaudium dedicato all'annuncio, in particolare al primo annuncio. Quando il Vescovo dice ognuno è missionario qui oggi, si fa conto su questo elemento, per cui oggi appunto nulla può essere dato per scontato nella predicazione della buona notizia. Guardate il numero 110. La predicazione gioiosa, paziente, progressiva della morte salvifica e della risurrezione di Gesù devono essere la vostra priorità assoluta. Queste sono parole grosse, io le sento dette a me come prete quando penso a che cosa dico concretamente, no? Riesce ad essere questa la priorità assoluta del mio servizio, del mio parlare? Tra le caratteristiche dell'annuncio ho tagliato qualche espressione del numero 165 che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa. Spiegava molto bene, credo in questo stesso luogo un anno fa, fratello Enzo Biemmi, che siamo passati, qualcuno c'era, da un cristianesimo del dovere a un cristianesimo in cui non è che il dovere o l'etica non contano più, ma giustamente li reinterpretiamo come risposta alla grazia e al progetto di salvezza. Ma è così nella logica cristiana. San Paolo, a tutti è noto per esempio per la lettera ai Romani. La lettera ai Romani ha una decina di capitoli, che sono capitoli sostanzialmente su chi è il cristiano salvato dalla morte di Gesù e non da altro. Dopo ha una parte morale bellissima, tra l'altro, con delle parole che io spero, non lo so, facciano anche oggetto qualche volta di qualche incontro con i genitori, perché sono parole che può condividere anche un sano spirito pensoso laico, Per quanto sta in voi, fate del bene a tutti, ma tu non rispondere al male col male. Cioè, una pagina lucidissima, non a caso viene dopo. E non viene dopo solo perché prima si parla di certe cose, poi alcune vanno dopo, ma perché l'idea è di una risposta alla grazia a cui assolutamente Paolo dedica tutta la lettera ai Galati e questa ai Romani in maniera fortissima. Oggi abbiamo la possibilità di riascoltare certe pagine, certe vicende che hanno fatto la storia anche del cristianesimo, dette per noi. Vedete che il Papa ce lo dice, no? Un annuncio di amore che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà. E poi da ultimo, in questa scelta estremamente veloce di brani che ci ricostruiscono un orizzonte, però mi sono permesso di citare due versetti della Evangelii Gaudium che sono davvero, a mio parere, luminosi. In uno ho sentito anche l'eco di quello che diceva la testimonianza dei nostri amici di Casale e Villadosia quando dicevano siamo felici della felicità degli altri. Mi ha colpito molto quella parola perché avevo in mente di leggere con voi il numero 272 in cui il Papa dice può essere missionario, il Vescovo ci ha detto che questo è un compito missionario, solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo. Chi desidera la felicità degli altri. che non vuol dire che una persona, credo, non sono un interprete autorevole, ma ci ragiono, non possa in qualche momento l'annunciatore stesso, il cristiano stesso, il missionario stesso, non sentirsi ferito, non sentirsi sempre bene. Non credo che il Papa voglia un atteggiamento ostentato di finto benessere, non è questo. Ma qual è la serenità di fondo di un annunciatore? Sapere che sta contribuendo alla serenità di un altro, anzi al bene di un altro, anzi alla felicità di un altro. Mi capita a volte di dirlo ai catechisti che si occupano dei bambini. Qualcuno di voi ha in mente di essere, intruppato in una macchina che è quella della socializzazione religiosa e in certi momenti magari si chiede, ma io sto facendo del bene a questi ragazzi? O non li stiamo un pochino, capite? Per sé, mettendoli in contatto con le sorgenti della fede, con i sacramenti che dicono la Pasqua di Gesù, noi aiutiamo la felicità dei ragazzi. Ma lo penso forse quasi ancor più per chi ha a che fare con i genitori, alcuni dei quali, non pochi dei quali, l'ultima volta che hanno potuto incontrare davvero una pagina del Vangelo sentendola come bella, il Signore Gesù e il suo volto sentendolo come positivo e promettente, la Chiesa come comunità che abbraccia e non respinge, se va bene, fanno l'infanzia. Allora, il fatto che noi, voi, io, tutti, qualche volta, con l'aiuto di una pagina di Vangelo, con l'aiuto, come è stato detto, della testimonianza della fraternità mistica della comunità cristiana, con l'aiuto del tentare con senso di umiltà, perché è stato detto, siamo fragili, un percorso assieme in cui anche noi ci poniamo certe domande, non ci impanchiamo solo come quelli che danno chissà quale risposta dall'alto, possiamo propiziare una piccola apertura da parte di qualcuno. Quando questa si verifica, c'è qualcuno che ha il dubbio che questa persona stia facendo un passettino verso la felicità? Ancora, Evangelii Gaudium 274 è un po' la medesima cosa detta con riferimento più globale proprio alla vita delle persone. Se volete la canzone della Mannoia che abbiamo appena ascoltato, sapete, non scritta da lei, ma scritta da una ragazza giovanissima, compositrice. Se riesco ad aiutare anche una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. Chi di noi, la maggior parte, è genitore, capisce questa cosa detta per sé. Tu puoi anche avere un solo figlio, ma grazie a Dio hai potuto donare la vita a questo figlio. O se l'avessi adottato, hai fatto una scelta che ha dato una vita e una casa a questo bambino. E ogni giorno quello che fai è il tentativo di non dismettere e di rendere onore a questa scelta fatta un giorno molto molto tempo prima. Anche se uno ha un figlio solo, non è che è meno papà, meno mamma di uno che ha 5 figli. Certamente chi ha 4-5 figli ha avuto la possibilità questa cosa di declinarla in tanti modi, in tante epoche, magari anche diversissime. Vale per un accompagnatore? Vale per un pastore? Vale per un evangelizzatore? Anche uno solo che si fosse sentito aiutato, attenzione perché a me colpisce l'espressione che sceglie il Papa, il quale, non credo a caso, non dice a pregare di più, poteva dirlo il Papa, siete d'accordo? A credere di più. Io sono convinto che per il Papa fede e vita sono la stessa cosa, quindi se avesse detto credere non era meno, Però di fatto, fra tutte le parole che poteva scegliere, sceglie quella basic, a vivere meglio. Anche se uno non si rendesse neppure conto, con le parole che usiamo noi, che vivendo meglio in realtà sta credendo meglio. Questo è un po' l'orizzonte. Naturalmente potevo richiamare altri testi, uno l'ha richiamato prima Maria Teresa, altri ciascuno di noi, e poi magari lo si potrà fare nel lavoro a isole, eccetera. Io volevo concentrarmi con voi riguardando alcuni numeri che concernono precisamente l'accompagnatore. Quali sono i suoi tratti, vi domandate, giusto? Ora, io, piuttosto che rispondere io, risponderei con quello che dice il Papa. Dobbiamo imparare a dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso, pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi, incoraggi a maturare nella vita cristiana. Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall'esterno. Occorre essere pazienti, comprensivi, trovare i modi per risvegliare la fiducia. È davvero un modo nuovo di guardare all'essere vicini a un altro. Per sé, nuovo. Uno potrebbe dire, ma il più tradizionale del mondo. È quello che ha usato Gesù, ed è così, ma per una serie di ragioni culturali e storiche non cattive, erano epoche diverse. Per 400-500 anni, in cui noi a partire dal Concilio di Trento, che è stata una grande grazia per le nostre terre, abbiamo consolidato l'istituzione ecclesiale, i ministeri ecclesiali in un determinato modo che fa sì che oggi siamo cristiani noi. Però d'altra parte non c'è stato bisogno di esplorare le possibilità del servizio alla fede degli altri nel modo che oggi invece mettiamo a tema. Ecco, allora ritrovarci con un filone antico, addirittura se volete proprio evangelico, di rispetto, di vicinanza, di prossimità, di incoraggiamento, di risvegliare la fiducia, perché quello che è stato abbastanza scontato per secoli, e cioè il fatto che se uno era di Casale piuttosto che di Padova, piuttosto che di Rubano, nel momento in cui era un cittadino era anche un cristiano, questo sappiamo non vale più. È una sfida. Allora, l'altro elemento che metterei lì in gioco è quello del numero 279, quello che invita a donare. Mi ha colpito il Vescovo quando diceva prima: alla fine noi andiamo con noi stessi, sostanzialmente, che non vuol dire una chiusura egoistica, capite? Ma lui voleva dire alla fine uno, nella tu per tu, che cosa conta davvero? Quello che sei tu, prima o poi viene fuori, eh? Io sto parlando ad alcune centinaia di persone, non mi conoscete, vengo una volta, posso anche fare un minimo di fuochi d'artificio, saluti e baci, a un certo punto vado ed è andato, ok? Se già io fossi lì ad animare un'isola di 10 persone dopo, è diverso. Se invece di 10 fossimo in 2 o 3, è diverso, siamo d'accordo? Non è solo un problema di quantità, ma di continuità e di prossimità, che a un certo punto inevitabilmente fa sì che uno la maschera, la scena, il bel discorso, l'immagine, la soluzione, la trovata, va bene. Però poi tu chi sei? Tu chi sei? Su questo siamo misurati. Non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti, dice il Papa, perché la fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Se si parla coi parroci, no? I quali magari dicono mi aspettavo molto dai figli di quella famiglia. E invece, però, a volte dicono anche il contrario. C'era quel ragazzo, quella ragazza, onestamente non mi aspettavo molto. E invece, è il bello, no? È il bello dell'imprevedibilità della grazia e della risposta umana. Il Papa lo dice. Quello che alla fine conta, dal nostro punto di vista, non è neppure fare la contabilità dei più di meno, ma il dono di noi stessi. Questo è necessario. Se in gioco c'è questo, è quello che ci è chiesto. Allora Maria Teresa diceva: quali sono gli indicatori che ci rasserenano? Non lo so, io sentendo anche sia le parole del Vescovo, sia la testimonianza prima, direi: se non ci abituiamo, Se aumenta la professionalità, parola che a me non scandalizza, ma non diventa mestiere. Se non ci sentiamo già pronti, se non è semplicemente il filo della ripetizione, ah, siccome ormai abbiamo già fatto tutto il giro e adesso ricominciamo dal primo anno, capite? Allora tu fai questo, tu fai quello, tu fai... A volte sì, questo è giusto, consolida, ma in realtà è un po' sempre diverso. Esagero. Se qualcuno se ne va, ma magari rimane un rapporto. Se qualcuno reagisce, anche se reagisse negativamente, qualche volta è meglio uno che dia segni di vita, piuttosto che uno che così, no, sì, poi dici, ma chissà. Ah, guardi, reverendo, quando mi occupavo appunto di catecumenato, questa catecumena, sai, si faceva un po' di verifica, eccetera, ascolta sempre, prende nota, ascolta e basta. Ascolta, è molto ricettiva. Ah, mamma mia, non è normale, siete d'accordo? Uno ascolta, poi parla, poi provoca, poi ci ripensa, poi non viene una volta, poi ti manda l'email. Questo succede nella vita. Ecco. Se qualcuno di quello che facciamo ne ha parlato a qualcuno, non ce l'ha detto, però abbiamo scoperto che è capitato così. Se qualcuno ci ha chiesto qualcosa, una persona su cui tu dici, ma viene a sti incontri, però chissà, arriva quella volta invece, quando meno te lo aspetti, che dice, sai quella cosa lì, ma dov'è che c'è una fotocopia, c'è un sito che posso andare a scaricare? O addirittura qualcuno che, non proprio nel modo di dire ho bisogno che tu mi dia, però di fatto ci sta chiedendo un consiglio. È capitato. Ultimo punto. Qualche colore per immaginare o dipingere la figura dell'accompagnatore, come abbiamo sentito la mannoia, qualcuno conoscerà le nostre ragazze, Alessandra Amoroso, eccetera. Vivere a colori, ecco, la vita dell'accompagnatore un pochino colorata, per favore. Vivere, eccetera. Proviamoci anche noi. Scelgo 4 colori dello spettro, se no non finivo più. Primo colore. Il colore più freddo. Partiamo dalla parte fredda dello spettro cromatico o della tavolozza dei colori, che però un pittore deve avere a disposizione se vuole essere aderente alla realtà. La realtà non è solo fatta di rosa, anche se la rosa quest'anno va così di moda, eccetera, mi spiace. La realtà è fatta anche di colori di questo tipo. Il violetto è a volte la situazione da cui si parte. Ricordo un film di alcuni anni fa, dedicato alla regina Elisabetta I, The Golden Age, con Kate Blanchett, eccetera, è al tavolo, a fianco c'è questo giovanissimo principe tedesco che gli mandano sperando che se lo sposi, perché lei ormai è la regina che arriva a 40 anni, un'età incredibile, per allora non sposata, tutti preoccupati, consiglieri, e c'è lì dove siete voi tutta la corte che balla e danza, loro mangiano e presiedono. E a un certo punto lei, che decide di scoprire le carte con questo ragazzo e di rimandarlo a casa ma senza umiliarlo, dice: principe, non vi pare ogni tanto che tra noi e loro, no? Tutti quelli che adesso mi vogliono sposata, tutti quelli che cacciano qui lei, anche lei è obbligato a fare sta scena, c'è davvero una differenza. Vede, mi permetto di darle un consiglio, lei è molto giovane, sa come faccio io? È come se qui ci fosse un cristallo, un vetro stupendo di quelli che vengono da Venezia, no? Così. Per cui io guardo, sorrido, mi faccio applaudire, mi faccio ammirare. Ma quella è la loro vita, quello che io penso. C'è un cristallo, non crede? E lui naturalmente non sa cosa risponde a un ragazzino a questa visione cinica, ahimè, ma molto reale della vita. Qual è il problema a volte, quando soprattutto un cammino inizia? Il cristallo. Noi preti, a volte non ce ne accorgiamo, laddove capita qualche volta un timido omaggio alla corona o almeno al fatto che uno non si alza in piedi e non ci manda al diavolo. Ma c'è il cristallo. E uno sta aspettando che finisca, come la pioggia. Questo è il colore dal quale a volte partiamo. Lo sappiamo. C'è un po' di freddezza, di diffidenza. Il vescovo prima lo diceva, ha avuto anche, come dire, l'umiltà di contestualizzarlo rispetto alle vicende storiche, ma al di là delle vicende storiche di questi ultimi mesi dolorosi a Padova, è una situazione più globale, che poi quando trova chiaramente una scusa, e poi dopo monta, ma comunque è così. Allora io vi faccio una domanda, non ho un suggerimento su questo punto, ma la domanda sì. Quando siamo nella situazione violetta o violacea o fredda, che cosa ci siamo accorti che invece ha provocato un coinvolgimento, come se quel cristallo venisse un pochino, non infranto, ma incrinato, diventasse paradossalmente poroso e la regina dica quello che vuole, ma in realtà qualcosina? Qui mi sono permesso di mettere una parola, la parola reciprocità. Voi sapete bene, vale anche con i ragazzi, con gli adulti però, se siamo onesti, lo sentiamo di più ancora, quello che vivi tu lo vivo io verso di te e viceversa. Cioè se una persona a volte si sente tenuta là, dietro il cristallo, va bene a lei, ma qualche volta va bene anche a noi. Invece mettersi in un altro rapporto vuol dire lasciarsi spiazzare. E questo costa. Davvero c'è in gioco il dono della vita. Davvero. Noi diciamo, a volte i genitori non sono molto disposti a venire perché capiscono che si devono mettere in gioco. È verissimo. Sapete che anche noi a volte, magari non noi che siamo in questa sala perché voi siete coinvolti in una formazione, però diciamo, noi, mondo dei catechisti, operatori, evangelizzatori, sappiamo che a volte verrebbe più facile fermarsi in un certo punto, no? Perché sennò poi dopo, cari miei, verde, colore ancora un po' freddo, ma che comincia già, soprattutto pensando al verde speranza, a farti vedere qualcosa. Noi abbiamo bisogno di tanto di sintonizzarci, di capire che non siamo fuori dal mondo, che non è che la vostra diocesi alcuni anni fa ha preso questa decisione, qualcuno l'avrà fatta approvare al vescovo che c'era, quello che poi è arrivato nuovo se l'è preso. Guardate che queste cose qui sono la caricatura del rinnovamento della pastorale, non è così. Dobbiamo ringraziare, dovete ringraziare che si sta facendo un cammino per quanto impegnativo, anche perché è proprio la Chiesa italiana che sta cercando di muovere. Qui ho riportato due testi del documento orientativo della Catechesi del 2014, Incontriamo Gesù, in cui per esempio si dice sulla pastorale 0-6 anni, che voi ben conoscete, alcuni praticano direttamente, guardate le ultime righe del prima citazione, la comunità cristiana impara dalle famiglie con figli piccoli, impara, non insegna, prima di tutto impara a costruire relazioni fondate su cose che per i genitori sono chiare, pane quotidiano, continuità. Non è che se mio figlio mi tratta, io sono ancora suo padre e sua madre, capite? Gratuità. Beh, qui non c'è neanche bisogno di semplificare. Un genitore fa delle cose e sa bene che un domani non gli verranno restituite. Fa parte del contratto. Semplicità. Perché in famiglia le cose complicate non durano. Stima. Dedizione. Se vedete questi tratti nelle nostre comunità oggi più di ieri, è anche grazie a una rinnovata attenzione ai genitori e agli adulti. L'altro brano è quello che riguarda il cammino successivo, quello in cui la maggior parte di noi sono impegnati con i genitori dei ragazzi della catechesi. Qui fa vedere i vari modelli, quello della condivisione di alcuni appuntamenti di preghiera, quello invece della preparazione con i genitori di schede o temi che verranno trattati con i figli, sono i grandi filoni all'opera. Quello che mi interessa sono le ultime righe anche qui. Si tratta in ogni caso, che si scelga un modello, si scelga un altro, di non lasciare sole le famiglie, ma di accompagnarle aiutando i genitori a trasmettere ai loro piccoli uno sguardo credente con cui leggere i momenti della vita. Questo è l'obiettivo grande. La Chiesa italiana Se queste cose le ha scritte nel 2014, è anche grazie a diocesi come la vostra che prima del 2014 si stavano lavorando. Chiaro? Quindi diventa un punto di riferimento, ma anche un punto al quale insieme siamo arrivati. È ancora verde, è ancora un colore freddo perché può essere qualche volta parole. Se abbiamo il coraggio di passare al colore giallo, dalle parole possiamo cercare qualche esempio veloce, perché poi sono cose che conoscete bene, di passare alle cose, alla vita. Come si cammina in questa direzione? Che cosa già crea calore? È il calore giallo, non ancora rosso, però è calore. Incrina un pochino il cristallo. Primo, diceva il vescovo, ogni genitore è un mondo. Ascoltare. Ascoltare che vuol dire non giudicare. Rispettare. L'abbiamo letto anche prima in Evangelii Gaudium. Non blandire, cioè non dare ragione per forza. Non è questo che un adulto chiede, un adulto a posto, insomma. Non è questione che io debba dar ragione. Qualche volta, soprattutto quando magari il cammino è in essere da un po', l'evangelizzatore, l'accompagnatore, l'animatore di un gruppo deve anche con garbo dire: guardi, questa forse è la sua opinione. Può capitare, Può capitare di doverlo fare. Ma perché una persona possa crescere, possa misurarsi con un'oggettività. Alla fine, quello che fa la pubblicità, quello che fa un venditore, un marketing qualunque, e lo dico con rispetto di chi fa questa professione, è darti sempre ragione, purché alla fine passi alla cassa. Sapete quelli che cercano di venderti, no, le piastrelle di colore azzurro? Anch'io avevo le piastrelle azzurre nella mia casa a Bibione. Ah sì, no, anch'io una montagna ho le piastrelle rosse, esattamente come quelle che le piacciono. Cioè, basta che compri una piastrella, a me va bene tutto. Non è questo il nostro modo di fare, non è trattare gli adulti da adulti, ascoltare, rispettare. Non illudere. Sapete cosa succede se una persona è illusa? Che poi ci vuole niente perché diventi delusa. Un rinnovamento dell'iniziazione come quello che da qualche anno una diocesi grossa come la vostra sta facendo ha chiesto un grande coinvolgimento delle comunità cristiane e all'interno delle comunità di pastori, catechisti, accompagnatori, eccetera, ma anche dei genitori. Se qualche volta ai genitori si dice questo è un percorso che a voi chiede e propone e poi questa cosa non la vedono, siete d'accordo che uno è un pochino deluso? Poi non pretendiamo la luna, eh? Aiutare a pensare, perché oggi tante volte questo è già un bel passo, un bel traguardo. Poi se uno parte, inevitabilmente insegna ai propri figli, inevitabilmente invitare a esprimersi a un certo punto, dare la parola. Certo, sapete cosa succede? Quando si dà la parola a qualcuno, qualcuno poi se la prende, la parola, la usa, e quindi questo chiaramente può fare anche un pochino, senza obbligare, avendo pazienza per quelli che preferiscono un profilo diverso, senza obbligare a dire le cose come le dico io, nel modo che dico io, coi tempi che ho io, però far comprendere che il cammino lo si fa insieme. E quindi, no? Pensate a certe persone che non sono state ascoltate o non gli è stata data la parola in momenti piuttosto delicati, tipo richiesta del battesimo per il loro figlio. È un motivo per il quale io apprezzo chi dice che debbano essere, tranne casi eccezionali, i genitori incontrati dal parroco, da chi insomma svolge questo servizio, e ascoltati insieme per la domanda di battesimo. Poi va bene che uno vada in parrocchia, la mamma che è a casa con la suocera, quella cosa lì, va bene. Ma il figlio, fino a prova contraria, l'hanno fatto, ecco, nonostante tutte le tecniche di oggi, l'hanno fatto la mamma e la suocera. Per cui sarebbe bene che andassero loro. Perché talvolta capita, dicono le statistiche europee, che se uno non va, magari è proprio quello che aveva un minimo, un angolo di riserva. Se in quella occasione si trova che è già tutto programmato, l'incontro, la cosa, cioè l'appuntamento, eccetera, e lui non ha potuto dire una parola, cosa farà? Apre l'ombrello. Va bene? Mica dovremmo avere discussioni in casa anche su sta cosa qui. Io alla fine cosa devo fare? Venire lì, fare, dice, fai tu, puoi fare tu. Allora io vengo, arrivo lì, saluto quelli fuori chiesa, ritiro fuori e vado. Detto ciò però, che si tratti di un uomo o si tratti di una donna, se uno non è stato ascoltato in quel momento e abbiamo preso per buono quello che ci dicevano gli altri, può darsi che poi dopo, quando gli diremo belle parole del tipo sentiti protagonista dell'educazione di tuo figlio, potrai tu dire, ci dica scusa, io sono lo stesso che 6 anni fa, sono lo stesso. Poi la maggior parte delle persone non ce lo dice per non farci restare male. Però capite che alla fine il risultato è quello. Dov'è il cristallo? Eccolo qua. Diamo la possibilità alle persone di esprimersi anche quando ci possono dire qualcosa che non vorremmo sentire. Imparare a discernere. Fuori dalle categorie, diceva il vescovo Claudio. Bravo. Ci sono i divorziati, ci sono i separati, ci sono le donne, ci sono gli uomini, ci sono i genitori anziani, ci sono quelli giovani, ci sono quelli preparati, ci sono quelli che credono, che non credono. Che belle categorie. Siamo dei categorizzatori. Un po' serve per capirsi, non dico di no. In tutte le professioni del mondo si fanno un po' di tipologie. Però, giustamente lui diceva, e gli amici l'hanno ripreso subito, conoscere per nome. Aggiungerei, non perché abbia bisogno, ma per intenderci, chiedersi dove una persona è, dove una coppia è, quale passo magari sta già facendo in silenzio, sottovoce, quale passo potrebbe fare, magari col nostro aiuto, con la battuta di uno che gli vuol bene, con la battuta del nostro parroco. Non tutti sono uguali. Non tutti sono allo stesso punto. Questo è un esercizio che i cammini rinnovati di iniziazione chiedono di fare anche per i ragazzi. La cosiddetta ispirazione catecumenale, a un certo punto, tra l'altro, dice: è un cammino ispirato al catecumenato se assume una logica di discernimento. Come capita per l'adulto che prima di andare al battesimo si dice come sta vivendo, come vive. Chiaramente qui parliamo di ragazzi, magari di ragazzi battezzati, non di catecumeni. Parliamo di ragazzi che sono in un gruppo e conta l'essere in un gruppo per le celebrazioni e per tutto. Detto ciò, noi ci chiediamo abbastanza dov'è questo ragazzo. Ma non perché dobbiamo poi decidere di promuoverlo meno. Io sono favorevole per i ragazzi, non per gli adulti. Per i ragazzi, al fatto che normalmente si fissa quel giorno da quel giorno, normalmente, perché c'è un gruppo, perché sono ragazzi, eccetera. Ma io catechista mi chiedo dov'è questo ragazzo. Se questo è importante per i ragazzi, siete d'accordo che per i genitori è vitale? Il vescovo lo diceva nella sua maniera semplice ed efficace, nome. E poi un ultimo colore. Salto qualcosa, se no è solo per dare un'idea. Si parte dal viola, si parte dal freddo, si parte da condizioni che fanno pensare che non si farà mai un passo insieme e si arriva invece al rosso. Ci sono cose delle quali o parliamo insieme o testimoniamo insieme, non ce la faremo mai. Il rosso è il colore anche della passionalità. I nostri ragazzi inevitabilmente, a un certo punto per la crescita, si imbattono in tutta una serie di questioni nelle quali sembra che la parola di Dio, l'esperienza fraterna fatta, il consiglio dei più grandi, l'essersi trovati bene in oratorio, nell'associazione, non contino più niente. È così? È così? Ma d'altra parte, alcuni di quelli che scoprono quasi di non avere più parola e più possibilità sono proprio i genitori, prima ancora che i catechisti. Quelli che a volte si sentono sguarniti e in problema sono i genitori. Allora, su questo Capite com'è distante dal violetto? Perché presume che dal violetto si sia passati al verde, dal verde al giallo e dal giallo al limite anche al rosso. Si può davvero tentare un'alleanza educativa estremamente impegnativa, una vera e propria sfida, ma o la si fa insieme o è impossibile, siamo d'accordo. Allo stesso modo sulle questioni del rosso, io mi permetterei anche di dire una cosa del rosso sangue, del rosso che a volte ti costa tanto, e quando delle persone se ne vanno, punto. Non è facile da gestire per un evangelizzatore, per un accompagnatore, per un catechista. Non è facile dopo anni. Non stiamo mica scherzando. Abbiamo detto che ne va un po' della nostra vita, di quello che abbiamo nel cuore. Ecco, su questa cosa io direi dobbiamo dare alle persone, se crediamo alla libertà, la responsabilità, anche la possibilità di andarsene. Questo ci metterà qualche volta un pochino in crisi, perché è giusto chiedersi se quello che abbiamo fatto, abbiamo tentato di fare, sia stato pensato bene, organizzato bene, eccetera. Dobbiamo chiedercelo. È vero che i numeri non sono la prima cosa, d'altra parte se ci accorgessimo che assolutamente è giusto farsi delle domande. Detto questo, però, teniamo anche presente che, tolto questo elemento giusto di verifica, per altro aspetto, il fatto che qualcuno se ne vada, cosa che mi spiace, c'è appunto il segno del sangue, capite? Siamo partiti da lì, tutti hanno diritto al Vangelo. Quindi, se qualcuno se ne va, spiace. E d'altra parte, anche un segno di libertà. Di fronte alla parola del Signore, uno si schiera. È capitato a Gesù. Certo, a differenza di Gesù, noi che non siamo Gesù, dobbiamo chiederci se siamo riusciti a realizzare, ed è il vero elemento di discriminante di verifica, questa cosa, che provo a dire così e poi finisco davvero, dovrebbe essere un pochino la logica soggiacente a qualunque attività che noi facciamo, con gli adulti in particolare. Che ti interessi o non ti interessi di me, la cosa importante è che possa in qualche modo interessarti di lui. Questa è la scommessa. Che ti interessi o non ti interessi di me, che ti possa stare a cuore lui. E allora teniamo presente che qualcuno inevitabilmente ce lo segnala questo, che noi non gli stiamo a cuore. E quindi magari non viene perché ci sono io con questa faccia, con questa cosa. Va bene, insomma. Quello che noi dobbiamo chiederci è se magari quella persona è nella condizione di interessarsi di lui. Se così fosse, anche il nostro sacrificio, anche il nostro color rosso sangue, ha senso di un dono. Con tanti auguri. Giorni della Chiesa. Questo era l'intervento di Don Paolo Sartor, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, intervenuto all'incontro diocesano per gli accompagnatori dei genitori nel percorso dell'iniziazione cristiana che si è svolto il 2 aprile scorso all'OPSA di Sarmeola di Rubano. Per il video, la registrazione dell'intero incontro, che in realtà era molto più lungo anche con alcune altre testimonianze, vi rimandiamo al canale YouTube della Diocesi di Padova. Grazie a Didaici Re, a voi tutti per l'ascolto, da Mirko Cavallin. Buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.